Il sito delle storie presenta Pelle d'Oca, liberamente ispirato ad una fiaba dei fratelli Grimm. Adattamento di Riccardo Mini e Roberta Goeta. C'era una volta un paese dove la sera, anzi la notte, la gente del paese si alzava da tavola. Prendeva una lampada, usciva di casa e attraversava tutto il paese fino ad arrivare ad una grande piazza dove era acceso un grande fuoco. La gente si sedeva attorno al fuoco e cominciava a raccontare delle storie. Storie di paura. C'era per esempio la storia del mostro senza testa, oppure la storia della bambina fantasma che usciva dall'armadio e così via. C'era sempre un momento della storia in cui si faceva un gran silenzio e la gente sbiancava in volto e le mamme trattenevano il respiro per sentire come andava a finire. E si sarebbe sentita volare una mosca, solo che anche la mosca se ne stava lì, a bocca aperta, senza respirare, per sentire come andava a finire la storia. In quel silenzio di tomba si sentivano soltanto due rumori. Crepitare del fuoco e poi annicchiato accanto al fuoco c'era un ragazzino piccolo piccolo che dormiva beato e sorrideva e russava. Si chiamava Giovannino, ma tutti al villaggio lo chiamavano Testa di Rapa. Era buono e gentile con tutti, ma dicevano che fosse un po' stupido. Suo padre era disperato. «Bambino mio», diceva, «sei proprio una testa di rapa. Non sai fare niente, stai tutto il giorno in giro nel bosco. E poi hai sempre quel sorriso da testa di rapa. Per fortuna c'è tuo fratello. Sveglio, serio, intelligente, eppure alto. Dovresti imparare un mestiere, fare come lui». E poi stasera mi hai fatto fare una figuraccia. Ti sei messo a russare mentre tutti gli altri avevano la pelle d'oca. La pelle d'oca? Rispondeva Giovannino. E che cos'è? La pelle d'oca è quella che ti viene quando hai paura, no? Ah, ho capito. Ma come si fa ad avere paura? Se me lo insegni, anche io saprei fare un mestiere. Il mestiere di avere paura. Ma cosa dici? La paura non è un mestiere. E poi come fai a non saperlo che cos'è la paura? Sei proprio una testa di rapa. Quella notte, mentre era a letto con suo fratello, continuava a pensare che se avesse saputo cos'era la paura, la gente avrebbe smesso di chiamarlo testa di rapa. Quindi doveva trovare qualcuno che gliela insegnasse. Il giorno dopo, il papà andò dal prete chiedergli che cosa doveva fare con quel figlio così tonto che non sapeva neanche cosa fosse la paura. Il prete non ci voleva credere. Ma com'è possibile? Disse. Tutti lo sanno cos'è la paura. Come fa a non saperlo? Facciamo così, guardi, lo mandi a lavorare da me, lo lasci qui da me qualche giorno, gli insegno io gli insegno cos'è la paura. Il ragazzo era contentissimo che ci fosse qualcuno che voleva insegnargli cosa fosse la paura e corse subito dal prete. Ma davvero lei sa cos'è la paura? Certo, figliolo, tutti lo sanno. Io, per esempio, quando avevo la tua età, sai qual era la cosa che mi terrorizzava più di tutte? Entrare in chiesa. Tutte quelle candele accese, tutti quei crocifissi pieni di sangue. Una paura che non ti dico. Ma del resto è stato tanto tempo fa. Ti ho fatto venire qui perché ho bisogno di un campanaro. Lo vedi quel campanile laggiù? Lo vedi quanto è alto? Io sto diventando vecchio e non ho più le forze per salire tutte quelle scale e arrivare fino in cima. Tu invece sei giovane e hai le gambe buone. Quando ti chiamo devi andare lassù e suonare le campane. Non è difficile. Non era difficile, ma era una trappola. Perché quella notte, a mezzanotte, il prete si svegliò e salì in silenzio fino in cima al campanile. In silenzio si fa per dire, perché gli scalini erano di legno vecchio e scricchiolavano. Quando il prete fu in cima, prese un vecchio lenzuolo bianco, fece due buchi vicini per gli occhi e si infilò il lenzuolo sulla testa. Sembrava davvero un fantasma. Così conciato, si avvicinò alla finestra e iniziò a gridare: «Testa di rapa! Testa di rapa! Svegliati, testa di rapa! Vai a suonare la campana!» «Va bene, arrivo! Ma guarda un po' se mi dovevano svegliare in piena notte per andare a suonare la campana! Me la dormivo così di gusto! Che freddo che fa qua fuori! Ho la pelle d'oca! Un momento! Ho la pelle d'oca! Allora ho paura! Ma no, ho solo freddo! Vabbè, pazienza!» Iniziò a salire le scale, un gradino dopo l'altro. Era quasi arrivato in cima quando si accorse che c'era una strana figura nascosta nell'ombra. «E lei chi è?» disse Giovannino. «E perché se ne sta lì con un lenzuolo sulla testa? Signore, venga avanti, non stia lì al buio, non la vedo. Signore, venga qui vicino, che c'è più luce!» A quel punto Giovannino si avvicinò alla figura nell'ombra e cominciò a tirarla per il lenzuolo. Il prete, per paura di essere scoperto, indietreggiò bruscamente. «Lasciami stare, testa di rapa!» «Oh mamma, è caduto! Si sarà fatto male? Andiamo a vedere!» Giovannino scese le scale di corsa e si avvicinò alla figura stramazzata al suolo. «Oh mamma, ma questo qui è il prete! Ma che ci faceva in cima al campanile con un lenzuolo sulla testa? Le sembrano scherzi da fare alla sua età?» Non sapeva cosa fare. Tornare a casa e dire al padre che aveva buttato il prete giù dal campanile? Chissà che castigo gli avrebbe dato. Si sentiva proprio una testa di rapa. Allora decise di non tornare a casa e non farsi più vedere da nessuno finché non avesse imparato da solo che cos'era la paura. Prese la strada che conduceva dentro la foresta e cominciò a camminare proprio mentre spuntava l'alba. Camminò tutto il giorno e intanto si ripeteva: «Sono proprio una testa di rapa! Se solo imparassi cos'è la paura!» In quel momento sentì una voce alle sue spalle che sussurrava: «Senti, senti, cos'è questa diavoleria? Un ragazzo che non sa cos'è la paura. Da dove vieni, ragazzo?» Si voltò a guardare e vide un uomo alto, sottile sottile, con una barbetta da capretta sotto al mento e due occhi neri come il carbone. «Vengo da quel villaggio laggiù», disse Giovannino, «e vado in giro per il mondo a cercare la paura, perché proprio non so cosa sia. E tutti mi prendono in giro per questo. Ma senti, senti, e dimmi un po', saresti disposto anche a pagare per sapere cos'è la paura?» «Certo, non ho molti soldi, solo qualcosa che mi ha dato il prete, ma lo darei via anche tutto, se qualcuno mi insegnasse la paura.» «Diavolo di un ragazzino, sei stato proprio fortunato ad incontrarmi. Te lo posso insegnare io, se vuoi, in cambio dei soldi, si capisce. Vieni dietro a me, seguimi.» Fine della prima parte.